L'iniziazione è il gradino più alto della disciplina occulta, del quale ancora si è consentito dare in un libro qualche cenno che in generale possa essere capito. Le notizie su tutto ciò che va oltre riescono difficili a comprendersi, ma chi è penetrato nei misteri minori attraverso la preparazione, l'illuminazione e l'iniziazione trova la strada anche per arrivare a quelli superiori. Le conoscenze e le capacità che vengono conferite all'uomo con l'iniziazione, senza di essa, potrebbero essere acquisite soltanto in un lontanissimo avvenire, dopo molte incarnazioni, per tutt'altra via ed anche in forma del tutto diversa. Chi oggi viene iniziato sperimenta qualcosa che altrimenti sperimenterebbe solo molto più tardi, in condizioni del tutto differenti. Un uomo può realmente conoscere dei segreti dell'esistenza solo quel tanto che corrisponde al suo grado di maturità. Soltanto per questo vi sono ostacoli verso i gradini superiori del sapere e dell'essere capace. Nessuno deve usare un fucile se prima non ha acquistato esperienza sufficiente per servirsene senza recare danno. Se oggi qualcuno venisse iniziato senza preparazione, gli mancherebbe l'esperienza che acquisterà nell'avvenire attraverso le sue future incarnazioni, fino a quando gli verranno svelati segreti corrispondenti al corso regolare della sua evoluzione. Perciò occorre che alla soglia dell'iniziazione queste esperienze vengano sostituite da qualcos'altro. Le prime istruzioni impartite ai candidati all'iniziazione mirano appunto a sostituire le esperienze future. Sono le cosiddette prove che si devono attraversare e che vengono come naturale conseguenza della vita dell'anima quando si praticano regolarmente gli esercizi descritti nei video precedenti. Di queste prove parlano spesso anche i libri. È però facile capire che tali comunicazioni potranno per lo più far sorgere sulla loro natura idee del tutto errate, perché chi non ha attraversato la preparazione e l'illuminazione non ha mai sperimentato tali prove e non può perciò descriverle giustamente. All'iniziando vanno mostrate cose e fatti che sono parte dei mondi superiori. Egli può però vederli e udirli soltanto quando sia capace di percepire spiritualmente le figure, i colori, i suoni e così via, descritti a proposito della preparazione e dell'illuminazione. La prima prova consiste nell'acquisire una percezione più vera, che non sia quella della media degli uomini, delle qualità corporee dei corpi inanimati e poi delle piante, degli animali e dell'uomo. Con ciò non si allude a quella che oggi viene chiamata conoscenza scientifica, perché non si tratta di scienza, ma di percezione. Di solito il procedimento è tale per cui l'iniziando impara a conoscere come le cose della natura e gli esseri viventi si manifestino all'orecchio spirituale e all'occhio spirituale. In certo modo queste cose gli si presentano allora svelate, come nude. Le proprietà che ora si odono e si vedono restano celate all'occhio fisico e all'orecchio fisico. Per la percezione fisica rimangono come avvolte in un velo. Per l'iniziando questo velo viene tolto in virtù di un processo che si chiama di combustione spirituale. Perciò questa prima prova viene chiamata la prova del fuoco. Per molti già la vita abituale è di per sé un processo più o meno inconscio di iniziazione attraverso la prova del fuoco. Sono coloro che passano per svariate esperienze di genere, tale che la loro fiducia in se stessi, il loro coraggio e la loro fermezza crescono nella direzione giusta e che imparano a sopportare con grandezza d'anima e soprattutto con calma e forza costante il dolore, la delusione e l'insuccesso delle loro imprese. Chi ha attraversato esperienze di questo genere è già spesso, senza esserne chiaramente consapevole, un iniziato. E poco più occorre perché gli si schiudano gli orecchi e gli occhi spirituali, in modo da diventare chiaroveggente. Bisogna infatti rendersi conto che una vera prova del fuoco non è destinata a soddisfare la curiosità del candidato. Certo, egli impara a conoscere fatti inusuali di cui gli altri non hanno idea alcuna, ma questa conoscenza non è lo scopo, ma il mezzo che conduce allo scopo. Lo scopo è che il candidato, per mezzo della conoscenza dei mondi superiori, acquisti maggiore e più vera fiducia in se stesso, coraggio superiore e ben altra grandezza d'anima e costanza, che non sia in genere possibile acquisire nel mondo inferiore. Dopo la prova del fuoco, ogni candidato può ancora tornare indietro. Proseguirà comunque la sua vita fisicamente e spiritualmente rinvigorito e proseguirà allora verso l'iniziazione soltanto in una incarnazione successiva. In quella attuale, egli sarà un elemento più utile della società umana di quanto non fosse prima. In qualsiasi situazione si trovi, la sua fermezza, la sua prudenza, la sua benefica influenza sui suoi simili e la sua energia saranno aumentate. Se, dopo aver passato la prova del fuoco, il candidato vuol proseguire la scuola occulta, gli verrà rivelato un determinato sistema di scrittura di quelli in uso nelle scuole occulte. In questi sistemi di scrittura sono rivelati i veri insegnamenti occulti, perché ciò che vi è di veramente segreto nelle cose non può essere espresso direttamente per mezzo delle parole del linguaggio abituale, né esposto per mezzo dei sistemi ordinari di scrittura. Coloro che hanno imparato dagli iniziati traducono, come è possibile, gli insegnamenti della scienza occulta nel linguaggio ordinario. La scrittura occulta si manifesta nell'anima, quando questa ha conseguito la percezione spirituale, perché quella scrittura è sempre scritta nel mondo spirituale. Nulla si impara come si impara a leggere una scrittura artificiale, piuttosto si va oggettivamente crescendo verso la conoscenza chiaroveggente e durante questa crescita si sviluppa, come capacità animica, la forza che si sente spinta a decifrare gli eventi e gli esseri del mondo spirituale, come fossero i caratteri di una scrittura. Potrebbe darsi che questa forza, e con essa l'esperienza della prova corrispondente, si destino di per sé nel progressivo corso dell'evoluzione dell'anima. Si arriva però più sicuramente alla meta, seguendo le istruzioni degli occultisti esperti che sono abili nel decifrare la scrittura occulta. I segni della scrittura occulta non sono ideati arbitrariamente, ma corrispondono alle forze che sono attive nel mondo. Per mezzo di questi segni si impara il linguaggio delle cose. Il candidato, ben presto, si accorge che i segni che impara a conoscere corrispondono alle figure, ai colori, ai suoni e così via, che ha imparato a percepire durante la preparazione e l'illuminazione. Si rende conto che finora non ha imparato che a compitare. Ora soltanto comincia a leggere nel mondo superiore. Gli si rivelano ora connessi in un grande insieme le figure, i suoni e i colori che prima vedeva separati. Ora soltanto acquista la giusta sicurezza nell'osservare mondi superiori. Prima non poteva mai sapere con certezza se le cose viste erano state vedute giustamente. Ora soltanto, fra candidato ed iniziato, può stabilirsi un'intesa regolare nel campo della conoscenza superiore, perché, qualunque sia il rapporto di convivenza nella vita ordinaria fra un iniziato e un'altra persona, l'iniziato non può comunicare il sapere superiore, nella sua forma immediata, se non per mezzo dei segni del linguaggio sopra descritto.